Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Treni più lunghi, con maggiore capacità di trasportare merci e che viaggeranno sulle linee ad alta velocità anche di notte. Questo è ciò che si delinea sempre più chiaramente nel futuro del trasporto merci su ferro in Italia. Da Torino a Salerno, passando per Milano, attualmente il sistema ferroviario italiano ad alta velocità, alta capacità, attraversa circa 1000 km del territorio nazionale, collegando anche Genova-Milano e Milano-Trieste. Il progetto è quello di far viaggiare, a partire dal 2018, sulle direttrici per l'alta velocità, mezzi che, durante la notte, sposteranno le merci a una velocità di 160 km orari. Durante il giorno, su quelle stesse linee, riprenderà il consueto trasporto dei passeggeri. La ricetta è stata prescritta dal governo e risponde alle esigenze di adeguare il settore agli standard europei, sia per quel che riguarda le regole del trasporto intermodale nei corridoi UE, sia per raggiungere i livelli di movimentazione di altri stati membri. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi ci occuperemo di un tema particolarmente caro all'Italia, quello della intermodalità, della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando varie modalità di trasporto e in questo caso utilizzando soprattutto la ferrovia. Il progetto, come avete ascoltato dalla scheda, è particolarmente ambizioso: far viaggiare le merci utilizzando le stesse linee ad alta velocità che vengono utilizzate durante il giorno dai passeggeri. Di questo progetto e più in generale della situazione del trasporto ferroviario delle merci in Italia parliamo in compagnia dei nostri ospiti, che sono Thomas Baumgartner, presidente di Anita, e Giancarlo Laguzzi, presidente di Fercargo, che è l'associazione che raggruppa tutte le imprese ferroviarie private. Cominciamo proprio da lei, ingegner Laguzzi: quale sarà il futuro del trasporto delle merci in Italia? E soprattutto quali saranno i principali vantaggi legati all'utilizzo di questa nuova rete ad alta velocità? Il vantaggio prevalente dell'utilizzo del sistema ad alta capacità non è la velocità, bensì la sagoma, perché la vecchia galleria dell'Appennino non consente di scendere coi trailer sul treno per questione di sagoma, mentre la linea ad alta capacità ha una sagoma adatta ai trailer e quindi si può scendere con l'intermodalità a sud di Bologna, sostanzialmente. Questo è il vero e principale vantaggio. A questo ovviamente si aggiunge quello della velocità, che consente ovviamente di raggiungere punto a punto in tempi inferiori. Però è molto importante quello della sagoma, in un contesto che è veramente epocale, perché sulla direttrice nord-sud avevamo due strozzature. Una è la strozzatura in Svizzera della galleria del Gottardo. La nuova galleria del Gottardo, che si attiva a giugno, elimina totalmente questa strozzatura con la più lunga galleria del mondo, che è lunga ben 57 km. A sud c'era la strozzatura del canale di Suez, che è stato raddoppiato. Quindi adesso la strozzatura è l'Italia. Quindi praticamente il flusso delle merci può transitare liberamente. Siamo diventati noi strozzatura. Quindi adeguarci con treni lunghi, con treni che passano sulle linee della città, non è soltanto fare meglio, ma cogliere questa grande opportunità di sviluppo del trasporto intermodale, per il quale serve la convinzione e tutto quanto del mondo della gomma, che è rappresentato dal dottor Baumgartner. Insomma, è stato subito chiamato in causa l'altro nostro ospite, il presidente di Anita, Thomas Baumgartner. Anita è una delle principali associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto, ma è soprattutto l'associazione che raggruppa le imprese più strutturate e quindi più proiettate verso questo discorso intermodale. Quanto è ampia questa vostra disponibilità a collaborare su questo fronte? La nostra disponibilità è ampissima, perché noi, in fin dei conti, siamo dei trasportatori che soddisfiamo solo le esigenze dei nostri clienti. I nostri clienti ci chiedono di portare la merce da A a B, però nulla vieta che questa merce da noi viene ritirata dal mittente e consegnata al destinatario. Per le parti iniziali e finali ovviamente bisognerà sempre utilizzare il nostro camion, perché i binari non possono andare ad ogni sito produttivo. E per questo noi siamo ben favorevoli al trasporto intermodale, che combina la strada, che è molto flessibile, molto capace per l'ultimo il miglio, e per poi far trasportare i nostri semimorchi e cassi mobili con la ferrovia. Importante è che la ferrovia, che sia privata o pubblica, offra un servizio efficiente, di qualità, e in questo contesto è ben vero quello che dice l'ingegnere Aguzzi, che fondamentale è riuscire a collegare l'Italia del Nord con il Sud, con delle gallerie, con infrastrutture, con le gallerie, con la sagoma che permette di trasportare semimorchio standard ormai europei di 4 metri di altezza laterale. Questo è essenziale, se no non si riesce neanche a farlo intermodale. Ma più che altro per noi è importante meno la velocità, ma l'affidabilità. Certo. Vuol dire che il treno parte quando si dice che parte, arriva quando si dice, un po' come i treni passeggeri, e questo non viene garantito da un'infrastruttura soltanto, questo viene anche garantito da una migliore gestione del sistema ferroviario, che oggi, essendo ancora semi-oligopolistico oppure monopolistico, non ci soddisfa ancora. Laguzzi, quindi dal parte dell'autotrasporto c'è questa disponibilità, il governo si sta muovendo molto su questo fronte dell'intermodalità in generale, del trasporto sostenibile. Chi manca all'appello per rendere questo progetto davvero efficace? Ma guardi, il governo credo abbia proprio centrato la politica del trasporto, del rilancio del trasporto ferroviario. Tocca ovviamente alle imprese, tocca a noi. Il mondo liberalizzato ha aiutato a fare un salto di qualità, perché i servizi sono migliorati, i prezzi sono un po' scesi, manca ancora qualcosa. E in effetti la migliore garanzia per il mondo dell'autotrasporto è avere un settore ferroviario completamente liberalizzato, per ovvi motivi, perché così uno si sente di competere e di utilizzare la ferrovia con una certa libertà, senza essere vincolati a dover parlare per forza con una o due imprese, ma parlarne con 5, 6, 7, 10, quindi fare un discorso di mercato, di prezzo, di qualità, quello che si fa normalmente in un contesto competitivo. Presidente Baumgartner, il mondo dell'autotrasporto è pronto per questo salto, che anche qui in questo caso è epocale, perché si tratta di far evolvere le imprese, non solo quelle grandi ma anche quelle medie e quelle piccole, verso un sistema che non è più legato alla semplice versione su strada? Sì, certo, ovviamente il trasporto intermodale è più complicato che il trasporto tutto gomma. Ci vogliono imprese un pochettino più lungimiranti, imprese un po' più strutturate. Per questo va bene anche l'indirizzo che il governo sta dando di riuscire a aggregare le aziende tra di loro per avere una minore polverizzazione in micro e mini imprese nel nostro settore trasporto. Però d'altra parte il governo deve anche in questo contesto poi incentivare il trasporto intermodale o anche gli investimenti al trasporto intermodale. In quel contesto c'è di incentivare anche le imprese strutturate, senza aver paura che l'impresa piccola dice ma io non posso utilizzare il trasporto intermodale e non è d'accordo con il sistema incentivante. Per esempio, se parliamo dei contributi dati per l'investimento ancora nel 2015, e noi abbiamo chiesto che venissero date per investimenti in attrezzatura per il trasporto intermodale, invece il Ministero le ha date solo per le piccole e medie imprese, ha lasciato fuori le imprese più strutturate, perciò non hanno potuto investire in container, semimorchi trasportabili o casse mobili. E anche quest'anno col ferro bonus non è andato come doveva andare, perché sarebbe stato molto più utile se questi contributi per del ferro bonus andassero direttamente all'utilizzatore, cioè a chi decide se utilizzare la ferrovia o meno, e non come invece pare che si voglia darlo agli operatori ferroviari, senza che l'utilizzatore abbia la sicurezza e la certezza che gli vengano poi ritrasferiti i contributi. Certo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.